È successo che immediatamente il giorno dell'incendio il sindaco ha preso atto del sopralluogo dei vigili del fuoco sulla Torre B e ha reso inagibile l'intera torre, diciamo, portando alla uscita, allo sfollamento di circa 200 persone, di cui una sessantina sono state ospitate per solo una settimana all'interno del palapalestra, una palestra comunale. Dopodiché sono stati di fatto fatti uscire e solo l'intervento delle associazioni ha permesso agli ultimi 40 che non avevano trovato una soluzione alternativa di alloggio di oggi essere ancora ospitati presso quello che era il doposcuola multietnico di un'associazione locale, Viale K. Dopodiché, in quella settimana post-incendio, i vigili del fuoco hanno fatto il sopralluogo anche nelle altre due torri, hanno trovato quelle che peraltro già si conoscevano, problematiche legate appunto agli impianti antincendio, cui lavori non sono di fatto mai stati completati, nonostante fossero stati avviati su impulso della precedente amministrazione comunale, e quindi il sindaco ha emanato un'ulteriore ordinanza che prevedeva lo sgombero delle due torri entro 15 giorni. Il reale problema è che, insieme a questa ordinanza, non ha mai dichiarato alcuna situazione di emergenza e ha ritenuto il sindaco e la giunta che questo fosse un problema privato, nonostante le due ordinanze alla fine abbiano messo sulla strada e privato di casa oltre 500 persone. Quindi 500 persone che dovevano trovare un'altra sistemazione in 15 giorni. Esatto, non c'è stato alcun intervento neanche di censimento dei bisogni da parte dell'amministrazione comunale, nel senso che ovviamente non tutte avevano bisogno di un alloggio perché alcuni hanno trovato ospitalità da amici, da parenti, altri addirittura sono andati via da Ferrara, ma sono rimaste e ieri purtroppo abbiamo assistito a questa scena tratti straziante delle persone che venivano fatte sgomberare. E di due assistenti sociali mandati lì dal comune improvvisati che in qualche modo dovevano cercare un posto per accogliere donne, bambini, separando le famiglie e senza avere alcuna contezza sul reale bisogno di quelle famiglie, nel senso che pian piano che scendevano venivano in qualche modo censite, ma il fatto che l'amministrazione abbia negato che ci fosse bisogno di prima di un coordinamento ha di fatto reso questa risposta assolutamente insufficiente, per cui per fortuna anche qui la Regione ha messo a disposizione dei locali a San Bartolo, diciamo, nel primo forese della città, li ha concessi ad uso gratuito alla Caritas e per fortuna 60 persone hanno trovato alloggio lì, però tuttora non sappiamo quanti di questi che abitavano a Grattacielo stanno vivendo per strada o in macchina e comunque in situazioni di estremo disagio. Si sa quante sono e se ci sono famiglie invece prese in carico direttamente dai servizi sociali del comune di Ferrara? Sappiamo che ci sono famiglie prese in carico da famiglie, donne e bambini prese in carico dai servizi sociali, non sappiamo quante siano perché c'è assoluta opacità su tutta questa operazione, nonostante peraltro il regolamento del Comune di Ferrara delle case popolari approvato dall'amministrazione Fabbri prevede comunque che le persone la cui casa è stata oggetto di ordinanza di inabitabilità abbiano diritto a una sistemazione al di là delle graduatorie dell'ERP. Per cui siamo di fronte davvero a da un lato, volontà di intervenire e poteva essere fatto nel modo più civile e sereno possibile in questi 15 giorni. Non si è voluto farlo ed oggi ci ritroviamo nella massima opacità e nella disperazione di molte famiglie che fino a ieri, letteralmente fino a ieri mattina, non sapevano se la notte avrebbero avuto un tetto sopra la testa. Ci sono prospettive per quello stabile o, come dire, questa dichiarazione di inagibilità e inabitabilità, come dire, chiude definitivamente? Allora, la storia del Grattacielo è una storia lunga, che aveva preso, diciamo, una piega positiva nel 2017-2018, quando l'allora amministrazione, che nel frattempo aveva acquistato alcuni locali nel grattacielo anche per partecipare all'assemblea di condominio, aveva diffidato il condominio a intervenire per eseguire i lavori, e i lavori erano iniziati. Sono stati parzialmente realizzati, erano lavori che riguardavano sia le parti comuni che i singoli appartamenti. Moltissimi appartamenti sono stati, i lavori sono stati realizzati, in altri effettivamente no, rimangono dei lavori da fare nelle parti comuni, qui le cifre poi ballano a seconda del riferimento che si trova. Nell'ultima assemblea di condominio, a cui il comune peraltro di fatto non ha partecipato, perché il direttore generale si è presentato, è intervenuto e poi se n'è andato, pare che l'entità complessiva dei lavori sia di 4 milioni di euro, anche se prima si è sempre parlato di cifre almeno della metà. Per cui ci potrebbe essere una prospettiva di risoluzione del problema. Erano state ventilate anche altre ipotesi, sempre l'amministrazione precedente a questa aveva ipotizzato anche una delocalizzazione del grattacielo, vincendo un progetto sulle periferie dell'allora governo Renzi, perché parliamo di parecchi anni fa, che invece l'amministrazione Fabbri poi ha completamente dimenticato, fatto andare di fatto in fallimento, e per optare per un fantasmagorico progetto di riqualificazione con il super bonus, che ovviamente non ha avuto mai luce perché non c'erano i tempi tecnici per poter realizzarlo. Addirittura si ricorda l'ex vice sindaco Lodi che con il rendering mostrava il ristorante all'ultimo piano del grattacielo per diciamo mostrare la trasformazione urbana. Resta il fatto che c'è stata una completa assenza dell'amministrazione in questi anni, che ha portato poi a quello che è successo negli ultimi 20 giorni. Nella precedente occasione in cui ci siamo sentiti su questa vicenda, tu sottolineavi che come dire, la gestione di questa vicenda da parte dell'amministrazione comunale evidentemente aveva anche un aspetto politico, data la composizione etnica degli abitanti, molti dei quali sono di origine straniera. Certo, il sindaco ieri ha parlato di liberazione del grattacielo, come se fosse un successo, non tanto il fatto di aver messo in sicurezza delle persone, che non sono state messe in sicurezza perché non c'è stata questa volontà da parte dell'amministrazione, ma appunto aver svuotato quel luogo che in effetti negli ultimi 30 anni ha subito un progressivo degrado. I lavori non fatti lo dimostrano anche edilizio, ma ovviamente questo aveva portato a un deprezzamento degli appartamenti sia in vendita che in affitto, e quindi ovviamente una composizione sociale del condominio che via via si è diventata sempre più povera, in particolare presentata da migranti, in particolare fra l'altro migranti che lavorano a Bologna, perché essendo il grattacielo di fianco alla stazione diventava comodo ovviamente per chi doveva fare il pendolare. Diciamo, le ultime dichiarazioni del sindaco confermano che c'era questa volontà, ovvero di, attraverso uno strumento che dovrebbe tutelare le persone, invece cercare di allontanare, mettere sotto un tappeto quelli che qualcuno non considera persone. Domani è prevista una manifestazione a Ferrara, giusto? Sì, è stata convocata, anche se non ho ancora i dettagli esatti perché devono essere ancora concordati con la questura, però sì, domani dovrebbe esserci un presidio con il corteo.